Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori, dove ritroviamo anche oggi, e capiremo perché ci sono questioni legali al centro, l'avvocato Gioia Barbato. Bentornata Gioia. Ciao Mirko, ciao a tutti. Allora, parliamo di PostePay, la carta, appunto, carta di credito, carta per pagamento di Poste Italiane, che ultimamente ha qualche problema, nel senso che ce ne sono molte clonate. Esatto. Abbiamo registrato, soprattutto nell'ultimo periodo, qua in associazione, molte segnalazioni relative al furto dei dati di accesso della PostePay. Quindi, sostanzialmente, molti consumatori si sono visti sottrarre molte centinaia di euro dal loro conto corrente, insomma, della carta di credito prepagata. E questo furto di dati, dove è stato perpetrato o messo a segno? Beh, generalmente in tutti quegli acquisti che vengono effettuati online, quindi tutti quegli acquisti che vengono effettuati tramite internet, ecco. E infatti proprio per questo motivo le Poste Italiane hanno trovato il modo di negare la possibilità di rimborso ai propri consumatori, adducendo appunto che gli utenti abbiano effettuato degli acquisti in dei siti non protetti, quindi in dei siti non sicuri. Ecco, esatto. Ricordiamo che quelli sicuri sono quelli dove appare in basso, a destra o in alto, a seconda di che sistema si usa, un lucchetto che dice questo sito è sicuro e si possono inserire password e codici tranquillamente. In realtà voi dite non è così, perché tanta gente dice ma io l'ho fatto, ho usato dei sistemi che dovrebbero essere sicuri, ma in realtà qualcuno si è appropriato dei miei dati. Certo, esatto, anche perché in base a tutte le segnalazioni che abbiamo ricevuto all'Adico, tutti i consumatori avevano effettuato degli acquisti, a parte in dei siti internet sicuri, ma c'erano addirittura degli utenti, soprattutto quegli utenti insomma più in là con l'età, ecco, che non avevano effettuato acquisti online, ma si sono semplicemente visti sottrarre dei soldi dal proprio conto corrente senza aver effettuato nessun acquisto online. E quindi noi riteniamo che ci sia un sistema poco sicuro a monte, quindi un sistema di sicurezza poco protetto, ecco, proprio alla fonte della questione. È stata coinvolta anche, immagino, la Polizia Postale, perché è quella che poi si occupa sia tecnicamente che per le indagini della questione. Esatto, infatti noi per quanto riguarda i rimedi abbiamo consigliato a tutti i consumatori di fare principalmente una denuncia querela all'autorità giudiziaria, o meglio alle forze dell'ordine. In particolare noi abbiamo messo a punto, noi dell'ufficio legale, un modulo di denuncia querela che distribuiremo gratuitamente a tutti i soci. Attraverso questo modulo non si fa che innescare la cosiddetta azione penale, quindi sostanzialmente si deposita il modulo alla stazione dei carabinieri o alla polizia postale, dopodiché questo modulo viene trasmesso alla procura, che provvederà ad effettuare le indagini più approfondite per individuare chi sia il vero responsabile di questi furti, insomma di questa frode informatica. Dopodiché, nel caso in cui il nostro consumatore volesse agire anche per il risarcimento del danno nei confronti delle Poste Italiane, abbiamo anche predisposto un'azione in sede civile, che si sostanza in due fasi. La prima fase, che è la fase stragiudiziale, che si concreta con la presentazione di una diffida o di un reclamo alle Poste Italiane. Nel caso poi le Poste Italiane diano una risposta non soddisfacente o comunque neghino la richiesta di rimborso del consumatore, sarà poi possibile agire con dei posti convenzionati in sede civile tramite un'azione che è già stata predisposta dal nostro ufficio legale. Per i vostri dati, per quelli che si sono rivolti a voi, a quanto ammontano mediamente le somme sottratte? Allora, in base alle ultime segnalazioni, le somme sottratte si aggirano intorno ai 1.000 euro, nei casi più disperati intorno ai 1.500 euro. Infatti, proprio per questo motivo, l'ufficio legale dell'Adico ha messo a punto la possibilità di adire le vie giudiziali in sede civile ad un costo convenzionato. Infatti, dal momento che la somma rivendicata è una modica cifra, anche la possibilità di intervenire in sede legale potrà essere attivata ad un costo veramente irrisorio, proprio per fare in modo che il consumatore abbia la possibilità a basso costo di rivendicare il proprio diritto. E quindi la prima cosa da fare cos'è? Andare all'ufficio postale e lamentarsi, fare no, delle verifiche? Cosa bisogna fare? Assolutamente, la prima cosa da fare è meglio se si recano all'Adico, perché noi abbiamo già tutto il materiale a disposizione. Quindi prima cosa da fare, primo step, e vale per tutte le persone danneggiate, presentare la denuncia o la querela a qualsiasi punto, a una qualsiasi stazione dei carabinieri o al comando di polizia postale, insomma la prima cosa da fare è comunque presentare denuncia alle forze dell'ordine. E allora questa prima azione può essere o di per sé sufficiente, nel senso che poi la procura provvederà ad effettuare le indagini più approfondite per individuare i colpevoli. Poi, nel caso in cui oltre alla denuncia una persona decidesse di intervenire anche nei confronti di Poste Italiane, sarà il caso dapprima di fare un reclamo a Poste Italiane, che sostanzialmente è una lettera di diffida. Dopodiché, nel caso in cui Poste Italiane non risponda o risponda in modo non soddisfacente, pensare di agire nei confronti di Poste Italiane in sede civile per contestare, insomma, il contratto, che abbiamo già verificato che si tratta di un contratto molto lacunoso, soprattutto per quanto riguarda la clausola dell'esonero di responsabilità nel caso in cui ci sia questa sottrazione di somme sospette. Ecco. Quindi è una doppia azione, una prima azione che è l'azione penale, che deve essere tra virgolette obbligatoria o comunque doverosa per tutti, e una seconda azione che può poi proseguire in un binario parallelo, la possiamo anche chiamare una fase eventuale, che è la fase civile. Benissimo, allora a chi dovesse capitare, speriamo non capiti, le clonazioni negli anni scorsi venivano fatte sui bancomat, nei grandi negozi, nei grandi centri commerciali. Adesso questo sistema a quanto pare non si usa più e si viaggia in forma elettronica, quindi attenzione e prudenza nel caso rivolgersi subito alle forze dell'ordine. Grazie allora all'Adico e all'avvocato Gioia Barbato per questi consigli, alla prossima. Grazie a te, ciao a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.